cielo mio sovrano, ove palme ti rende, or che la sorte mi fe liberatore della Germana, dell'Augusto imperante, e già terratto in catene, e il folle amante. Generoso Giustino, quanto ammiro il tuo amor guerriero, poiché le tue vittorie frician di nuove glorie il nostro impero. Or, permetti un regina che a Cesare ritorni, donne famoso eroi, sian queste gemme del tuo merito per te, degna mercede. Questa è la fede. Bacio l'augusto dono e nel mio seno formi bella memoria di tua regia bontà, di mia vittoria. Ma di sì gran favore non soffrirà l'invidia il chiaro lampo che da mostro si rido fin dalle prime tardi le più rare virtù, ma le per scampo.